Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. In primo piano. Sono le 7:35 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani. Quest'oggi aperture veramente differenziate, quindi piatto ricco, diciamo così. Iniziamo dal Sole 24 Ore. Torna il premio contro l'uso dei contanti, questa è l'apertura per quanto riguarda la lotta all'evasione. Nel decreto di agosto oltre 1 miliardo per incentivare i pagamenti elettronici, prevista la ricostituzione del fondo per il cashless ma con una dote ridotta. Così appunto ci dice il Sole 24 Ore. E al centro pagina, l'oro sfonda quota $1,900, avvicina il primato del 2011. Le tensioni Stati Uniti-Cina condizionano i mercati, con le borse ad alta volatilità che chiudono in rosso, Milano meno 1,85. Riparte la marcia dell'oro che, grazie anche al calo del dollaro, ha superato per la prima volta in 9 anni la soglia dei $1,900 per oncia, avvicinandosi al record assoluto 1921,17. C'è poi un approfondimento a cura di Jacopo Giliberto sulla plastica. Per la plastica infatti sono in vista una tassazione doppia da pagare a Unione Europea ed Italia. Il 1 gennaio sono in arrivo, scrive Giliberto, 2 imposte molto diverse sulla plastica. Un tributo nazionale sulla materia prima, a cui si sommerà una tassa europea sullo smaltimento finale. Secondo l'Assobibe, che raccoglie produttori di bevande analcoliche, l'imposta italiana causerà un aumento del 50% dei costi di approvvigionamento sulla plastica. La tassa europea, invece, della quale mancano ancora i dettagli, insisterà su tutti quei rifiuti da imballaggi di plastica che alla fine del ciclo di raccolta differenziata non saranno riciclati. E questo poi dopo scrive Giliberto nelle pagine interne, per le precisioni a pagina 11, questo aspetto sul riciclo della plastica, beh, diciamo, tutela un po' più gli italiani, dove perché nel nostro paese c'è una maggiore raccolta e riciclo rispetto ad altri paesi, invece diciamo ecopigri, scrive Jacopo Giliberto. Il Consorzio Nazionale di Recupero della Plastica, Corepla, rileva che in Italia oltre 1,37 milioni di tonnellate sono state raccolte in modo differenziato, ovvero il 13% in più rispetto al 2018. Lo scorso anno sono state riciclate 617.292 tonnellate di rifiuti di imballaggio di plastica, e il consorzio Corepla ha avviato al recupero energetico altre 445.812 tonnellate per produrre energia al posto di combustibili. Quindi sono stati usati i rifiuti in plastica al posto di combustibili. E va bene, questo è uno dei temi oggi sviluppati sul Sole 24 Ore. Come vi dicevo, c'è un approfondimento su i fondi anticontante che ritornano, ne scrive Gianni Trovati, e dice: la battaglia contro il contante non è del resto tema che appassiona solo Palazzo Chigi. Al Ministero dell'Economia sono stati riaperti in fretta i fascicoli della riforma fiscale abbandonati nel pieno dell'emergenza sanitaria. La riforma, che non può essere finanziata con le risorse comunitarie, dovrà trovare coperture strutturali domestiche per partire davvero. E in questo quadro il binomio lotta all'evasione, battaglia al contante diventa centrale nella strategia costruita dal governo, soprattutto per dare gambe all'ambizione di costruire per gli autonomi un fisco per cassa in grado di abbandonare saldi, acconti e modelli matematici di determinazione dell'imponibile presunto. L'idea di base di questo nuovo fisco, rilanciato nei giorni scorsi dallo stesso Gualtieri alla Camera, e di far calcolare direttamente dall'amministrazione finanziaria le imposte dovute sulla base degli incassi effettivi. Ma è ovvio che gli incassi devono essere tracciabili. E così poi prosegue Gianni Trovati sul Sole 24 Ore. Noi passiamo al Corriere della Sera. Corriere della Sera, foto notizia di apertura dedicata ad Alex Zanardi, che come sapete è stato nuovamente trasferito in terapia intensiva, questa volta a Milano dopo l'incidente del 19 giugno scorso. Ansia per Zanardi, è instabile, torna in ospedale ed è ricoverato al San Raffaele. Al centro pagina, ora Fontana è indagato, e qui si parla del presidente della regione Lombardia. Nel 2015 scudò 5 milioni in Svizzera, bloccati 250.000 euro al cognato. La vicenda viene poi descritta, ricostruita, insomma, da Luigi Ferrarella. Nel primo piano, nelle pagine interne, Camici, scudo fiscale e soldi al cognato, indagato Fontana. La regione è corretta, ribattono appunto dalla regione Lombardia. Giusto qualche passaggio, perché davvero è intricato l'articolo, bisogna leggere tutti i pezzi, non posso, diciamo così, saltare di palo in frasca. Vi leggo l'incipit: con parte dei soldi di un proprio conto in Svizzera, sul quale nel 2015 aveva fatto uno scudo fiscale per 5,3 milioni detenuti fino ad allora da due trust alle Bahamas, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, ora indagato per l'ipotesi di frode in pubbliche forniture, il 19 maggio cercò di fare un curioso bonifico per arginare, 4 giorni dopo una generica intervista di Report, il rischio reputazionale insito nei 75.000 camici e 7.007 sanitari venduti per 513.000 euro alla regione il 16 aprile dalla società Dama SPA del cognato Andrea Dini e per il 10% della moglie Roberta. Andò all'Unione Fiduciaria, che gli amministra il mandato fiduciario misto, da 4,4 milioni accennato a pagina 3 del modulo sulla situazione patrimoniale dei politici sul sito online della regione, e tentò di bonificare alla Dama SPA del cognato 250.000 euro, cioè gran parte del mancato profitto al quale il cognato l'indomani sarebbe andato incontro, facendo il 20 maggio, in una mail alla centrale acquisti regionale Area SPA diretta dall'ex GDF Filippo Giovanni, l'unilaterale bel gesto di tramutare in donazione alla regione l'iniziale vendita dei 75.000 camici e di rinunciare a farsi pagare dalla regione i 49.353 camici e 7.000 set già consegnati. Ho letto appunto soltanto il primo capoverso, molto dettagliato, di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, sulla vicenda del presidente della regione Lombardia indagato per questi camici. Sempre dalla prima del Corriere della Sera, da segnalare il commento di Maurizio Ferrera sull'Europa nel segno di Merkel. Nelle democrazie i leader più capaci diventano statisti a pieno titolo solo quando escono di scena. Forse, dopo l'accordo raggiunto sul Recovery Fund, Angela Merkel merita un'eccezione, almeno per quanto riguarda il suo ruolo europeo. Andiamo a Repubblica, che sceglie invece l'apertura di aprire sugli allagamenti di ieri, il nubifragio di ieri a Milano. Esonda il fiume Seveso, c'è ovviamente una fotografia molto eloquente della situazione. L'Italia fragile è il titolo. Dopo Palermo, bomba d'acqua a Milano, siamo nel continente quelli a maggior rischio idrogeologico, ma dei 9 miliardi di opere stanziati nel 2015 contro il dissesto, 7,5 sono bloccati dalla burocrazia. E c'è nelle pagine interne un'intervista al ministro Costa, ministro dell'Ambiente, intervistato da Emanuele Lauria, e qualche passaggio proprio sulla questione delle misure di contrasto possibili. Allora, non è un problema di risorse, dice Costa, quelle ci sono, garantite dal Fondo di Sviluppo e Coesione. Dei 9 miliardi a disposizione già nel 2015 per far fronte al dissesto, ne sono stati spesi solo 1,5. È un po' poco, vista la dimensione del problema. Risposta di Costa: se è per questo, quella cifra oggi è anche più alta. Nel 2018 le risorse ammontavano a 11 miliardi, oltre la metà dei quali destinati alla prevenzione. Il problema, come dice lei, è che ci sono indici di spesa bassissimi. La competenza sulle azioni contro il dissesto idrogeologico è dei governatori, che sono anche commissari del governo, ma pagano dazio alle inefficienze dei comuni, che dovrebbero fare la progettazione delle opere e non la fanno perché non hanno soldi. Una banalità che rischia di provocare tragedie. Appunto, dice Lauria. E quindi abbiamo adottato le contromisure. Nel decreto legge semplificazioni c'è una norma che permette di anticipare ai comuni il 30% delle spese per i progetti definitivi, e mettiamo a servizio degli enti locali la Sogesid, società di ingegneria in-house dello Stato. I comuni d'ora in poi non hanno più scuse. Ma perché ha smantellato la struttura di missione costituita da Renzi, che si occupava proprio di dissesto, chiede Lauria? Perché faceva diventare il sistema antidissesto una sorta di ufficio delle cose complicate. Il 90% sostiene Costa, per Costa, il ministro Costa, il 90% del lavoro lo faceva il Ministero dell'Ambiente, il restante 10% quella struttura di missione che dipendeva dalla Presidenza del Consiglio e costava 900 milioni. Abbiamo ritenuto più coerente dare tutte le funzioni al Ministero, che ha una direzione specifica, e riversare quei soldi direttamente sulle misure di prevenzione. E come abbiamo letto, però, bisogna anche usarli questi soldi. Allora, andiamo al giornale. Processo a Berlusconi, continua l'interesse del giornale per questa vicenda. La confessione di un giudice: ho visto cose inimmaginabili, questo è il titolo di apertura. Al CSM ricordano le parole shock del magistrato Aprile sulla Camera di Consiglio che condannò il Cavaliere. Sarebbe entrato anche un estraneo. Altre rivelazioni clamorose sulla Camera di Consiglio della sezione feriale della Cassazione, che nel 2013 condannò l'ex premier Silvio Berlusconi. Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare, confessava il magistrato Aprile al CSM. Intanto la Procura di Roma apre un'inchiesta sui misteri di quella sentenza. La viabilità, e ripartiamo da qui. In primo piano. Alle 7.47 torniamo appunto sulle pagine del giornale. La sentenza Berlusconi, vi leggo Anna Maria Greco. La frase è quella famosa di Blade Runner: ho visto cose che voi umani non potreste immaginare. Lui non era il replicante del famoso film di fantascienza, ma un magistrato di Cassazione, consigliere del CSM. Racconta qualcuno a Palazzo dei Marescialli che Ercole Aprile l'abbia ripetuta più volte quella frase, con un eloquente ammiccamento quando gli chiedevano del suo precedente ruolo di giudice nella sezione feriale della Cassazione, che il 1 agosto 2013 condannò definitivamente Silvio Berlusconi per frode fiscale. Le cose indicibili, così le definiva, si riferivano a quel che vide e sentì nel segreto della Camera di Consiglio, quella in cui, secondo fonti non identificate di Repubblica, inteso come il quotidiano, il relatore Amedeo Franco, scomparso un anno fa, sarebbe stato scoperto dagli altri quattro componenti a registrare la loro conversazione di nascosto. Avrebbe nascosto in bagno un cellulare o altro dispositivo e lì l'avrebbe trovato un collega del collegio, andando a controllare subito dopo. E così appunto inizia il pezzo di Anna Maria Greco su questa vicenda, a cui il giornale dedica diverse pagine, come ultimamente sempre. Andiamo al Fatto Quotidiano e i messatori, fake news, il falso allarme sulle casse vuote dello Stato. Questa è l'apertura, che cita tra l'altro il Sole 24 Ore, dicendo che si tratta di un assalto a Conte. Il Sole 24 Ore spara e Gualtieri smentisce, ma dopo ore. Giornali e PD scatenati sul salva stati superato dal recovery fund. Andiamo anche qui a vedere un po' di cosa si tratta. A pagina 2, Carlo Di Foggia, sul famigerato meccanismo europeo di stabilità, MES, e le sue linee di credito sanitarie, ormai in piedi una battaglia politica senza esclusione di colpi, anche a costo di mettere nei guai il paese sui mercati. L'assalto quotidiano di mezzo arco parlamentare, grande stampa e pezzi di establishment europeo, che si è perfino intensificato dopo l'accordo sul fondo di ripresa trovato martedì, ieri ha raggiunto vette inesplorate, con tanto di incidente istituzionale. Il Sole 24 Ore ha aperto la sua prima pagina attribuendo al ministro dell'economia Gualtieri la frase «tensioni di cassa se non usiamo il MES», che tradotto significherebbe «l'Italia sta per finire i soldi». Secondo il quotidiano di Confindustria è il senso di quanto detto da Gualtieri al vertice tra i capi delegazione della maggioranza Palazzo Chigi mercoledì, prima del Consiglio dei Ministri, che ha varato il nuovo scostamento di bilancio per 25 miliardi a copertura del nuovo decreto di agosto. Per tutta la giornata il tesoro è stato subissato di telefonate, la smentita è arrivata solo poco prima delle 13, dopo la rivolta dei 5 Stelle e gli attacchi dell'opposizione, come se la notizia non fosse price sensitive, cioè in grado di creare tensione sui mercati. Gualtieri non ha mai pronunciato le parole attribuitegli dal titolo del quotidiano e per il bilancio dello Stato non esiste alcun problema di cassa. com'è come non è. Da qui andiamo al dal Fatto Quotidiano, andiamo alla Stampa, la Stampa che guarda caso apre proprio sullo stesso tema, per quello ve li ho diciamo messi vicini in modo da sentire, no? come continuano a rimpallarsi le cose. Soldi subito anche con il MES, l'intervista al ministro Speranza: tornano a salire i contagi, abbiamo bisogno di almeno 20 miliardi per la sanità. E così, intervistato da Davide Lessi, il ministro Speranza dice: dobbiamo avere le risorse da investire nel sistema sanitario. E da esponente di LeU si spinge oltre. Il MES va bene che questi soldi arrivino in modo certo e veloce e siano immediatamente disponibili. Un messaggio rivolto anche a Palazzo Chigi. Alla sanità servono subito 20 miliardi per una rivoluzione copernicana. Non è il caso di tergiversare. Occorre ancora prudenza e attenzione, professa Speranza da Facebook. Il senso dei richiami, lui che sui social si definisce padre di Emma e Miki prima ancora che ministro, lo spiega così: non possiamo sprecare i sacrifici enormi fatti dagli italiani. Quasi due mesi di lockdown, un paese costretto in casa per DPCM, le scuole chiuse, enormi ripercussioni economiche e psicologiche. Ecco perché, è la convinzione del governo, l'Italia non può permettersi di tornare indietro. Più avanti parla anche dello stato di emergenza. Abbiamo, qui è proprio un virgolettato, abbiamo deciso di prorogarlo fino al 31 ottobre, conferma Speranza e spiega. Spiega l'iter. Faremo due passaggi parlamentari, martedì e mercoledì, poi subito dopo la decisione andrà in Consiglio dei Ministri. Schiva le polemiche il ministro, soprattutto quelle che arrivano dall'opposizione, dal segretario leghista Salvini, di utilizzare un regime di eccezione per limitare le libertà degli italiani, o peggio, come sostiene il segretario della Lega, per importare gli infetti. La verità, tagli a corto il ministro, è che avevamo provato a evitare la proroga, ma avremmo comunque bisogno di singoli pezzi di poteri d'eccezione per emettere le nostre ordinanze a tutela della salute degli italiani. Così Davide Lessi sulla Stampa. Il Manifesto sceglie una foto notizia di apertura su quanto accaduto a Piacenza, al via gli interrogatori dei carabinieri di Piacenza arrestati per traffico di droga, estorsione e torture. Nel 2018 i militari furono premiati per i particolari risultati conseguiti nella lotta allo spaccio di stupefacenti. Il comando generale dell'arma azzera i vertici provinciali. Così il Manifesto, il titolo è Premio Infedeltà. Ve l'ho letto dopo, adesso che abbiamo più chiaro appunto attraverso questa descrizione della fotonotizia come mai sia stato scelto il titolo Premio Infedeltà dal Manifesto. Andiamo alla Verità. Il fidanzato di Rocco Casalino segnalato all'antiriciclaggio. Questa il titolo di apertura. Operazioni di trading ritenute sospette. Il cubano, compagno del portavoce di Conte, è finito sotto controllo per scommesse in borsa, con una carta di credito alimentata anche dal conto corrente dell'ex volto del Grande Fratello, e quindi Casalino stesso si intende. Centropagina, la fotografia del presidente turco Erdogan in preghiera alla moschea di Santa Sofia, quella che è tornata una moschea, schiaffo di Erdogan alla chiesa, profanata Santa Sofia, questa è la lettura che dà la Verità. Banchi e precari, Azzolina e Arcuri, coppia antiscuola, sempre dalla Verità, ne scrive Mario Giordano, il ministro e il commissario terrorizzano le famiglie con annunci e bandi impossibili. Ed è il bando per l'acquisto di nuovi banchi alla scuola, di cui tra l'altro parleremo proprio lunedì in Ma cos'è quest'estate, la nuova trasmissione che ci accompagnerà per tutto il mese di agosto, dalle 8 del mattino alle 9.30. Andiamo a Libero, processo all'arma, la dolce vita dei carabinieri indigna troppo gli italiani. Questo è il titolo di apertura, la sinistra si compiace dello scandalo che travolge i nostri militari e li paragona agli agenti USA allo scopo di delegittimare lo Stato, come accade con la Chiesa e i pedofili. E così Libero. La Azzolina fa saltare i banchi, anche qui la fotonotizia sempre della ministra con quel banco con le ruote che abbiamo visto anche in televisione. Andiamo al Quotidiano Nazionale, centropagina Alex Zanardi, tutta Italia con Alex, paura per Zanardi, il campione torna in terapia intensiva, il bollettino medico dice è instabile, servono accertamenti. Il titolo d'apertura invece è per i carabinieri infedeli, punto interrogativo, chiede il Quotidiano Nazionale, pure premiati. Nel 2018 la caserma di Piacenza ottenne una menzione per la lotta alla droga. Ieri interrogati militari accusati di spaccio, cadono le teste dei comandanti, indagini sui conti e soldi nascosti in ufficio. Il sondaggio dice che crolla la fiducia nell'arma. È un sondaggio a caldo, certo, dopo questa vicenda non potrebbe che dire così. Bisognerà vedere forse nel tempo, insomma, nel prosieguo. Abbiamo gli ultimi 30 secondi, li utilizziamo per l'apertura di Avvenire, soffocati dall'usura. Un gravissimo e grandissimo tema, le storie della pandemia sociale. Imprenditori e famiglie in crisi di liquidità, costretti a chiedere soldi fuori dal mercato ufficiale. La situazione è critica a Bari. Nel cuore della Puglia, Bari, il fenomeno dell'usura mostra il suo volto più drammatico, scrive Nicola Lavacca. Tante le storie di famiglie e imprenditori stretti nella morsa di strozzini senza scrupoli, sono sempre più raffinati e temibili, raccontano le vittime che hanno una sola speranza: denunciare. Ci dobbiamo fermare qui, ci ritroviamo alle 8.30 con Si può fare, ora c'è GR24. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.